Avanti un altro è sempre qui. Avanti un altro è sempre qui. Avanti un altro è sempre. Spooky Halloween Edition. Sempre qui con noi, hey! Sempre qui con noi, no! Sempre qui con noi, oh, wow. Avanti un altro Spooky Halloween Edition, yeah. Alexa risponde alle tue domande con i tuoi affetti e sempre ti dirà le sue risposte e sempre si sa. Un altro è sempre qui. Avanti un altro è sempre qui. Avanti un altro è sempre qui. Avanti un altro Spooky Halloween Edition. Sempre qui con noi. Un altro è sempre qui.